Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. In questi giorni qui a Milano si sta svolgendo SMAU, la fiera dell'innovazione digitale, più di 50 anni di storia, e si è parlato anche di corporate barter, ovvero il nuovo baratto. Noi qui a Smart City ci occupiamo anche di innovazione sociale, allora naturalmente la cosa ci interessa, e per farci capire meglio di che cosa si tratta c'è qui con me Silvia Sardena, partner dello studio legale Eulex di Padova, che appunto si sta occupando di queste tematiche. Benvenuta. Grazie. Allora, intanto, che cos'è questo barter? Come funziona? Allora, il barter è una pratica commerciale, appunto correttamente definito anche baratto, nel senso che prevede l'interazione tra più soggetti. Viene costituito un circuito chiuso a cui il soggetto deve aderire, e che all'interno di questo circuito o vetrina commerciale pone in vendita i propri beni. All'interno dello stesso circuito ci sarà un altro aderente al circuito che vorrà acquistare questi beni. Quindi attraverso il circuito avviene lo scambio di beni e servizi, non verso il corrispettivo di un prezzo in denaro, ma bensì attraverso l'acquisizione di un credito, ossia io vendo un mio bene a un aderente al circuito e come corrispettivo avrò una moneta complementare. Complementare, quindi moneta. Non direttamente non degli euro, ma esatto. Acquisisco dei diritti di acquistare altri beni messi a disposizione da altri aderenti al circuito, a questo stesso esatto. Circuito. Quindi in realtà se io sono un operatore commerciale, avremo che questi eurocrediti o piuttosto che bitcoin, piuttosto che chiamati anche con nome di fantasia, sì, avranno un valore equivalente in denaro che io iscriverò proprio in bilancio. Questo consente anche in qualche modo una maggiore tracciabilità delle operazioni commerciali e quindi una evidente funzione di controllo di tutte le transazioni economiche. Allora, intanto che cosa si vende? Che cosa si vende su queste si reti? Vendono, un po' di tutto immagino. Però. Esatto, può essere venduto qualsiasi tipo di prodotto, dai beni principali del core business di un'azienda a anche beni di tipo secondario che un'azienda produce in qualità limitata. Un caso particolare un'azienda importante italiana di barter è addirittura riuscita a fare vendere e quindi risollevare la crisi immobiliare immobili ad uso capannoni ad uso artigianale. Cioè, diciamo che quello che non era riuscito a piazzare sui circuiti, esatto, normali è riuscito a piazzarlo all'interno di questo all'interno circuito. All'interno del barter. È evidente che rispetto al baratto tradizionale il vantaggio è che non devi cercarti uno con cui vuoi scambiare proprio quell'oggetto lì. La caratteristica è la multilateralità. Cioè. Perfetto. Ecco, dal punto di vista fiscale come funziona? Cioè, ci hai già detto che l'operazione è tracciata. È tracciata, esatto. Quindi in realtà viene messa una fattura. E questo è chiaro. E quindi l'acquirente pagherà in moneta però complementare e il venditore acquisirà un credito. Questo credito è assoggettato in forza di un tasso di conversione vigente applicato dal circuito. Quindi non è che questa moneta complementare ha un valore ben preciso e predeterminato. Okay. Pagherà le imposte sulla transazione e sul reddito. Fa un utile con questa moneta complementare e poi a seconda della conversione, esatto, pagherà esattamente le tasse. Questo in forza della normativa italiana e viene applicata proprio anche la normativa sull'IVA, quindi in realtà le transazioni sono soggette a IVA. E quindi. La diffusione del barter in Italia? Allora, la diffusione del barter in Italia varia da regione a regione. È molto presente in regioni quali Lombardia, soprattutto Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna. Che, diciamolo pure, sono anche le regioni che hanno più cultura della comunità. Esatto, ecco. Perché una funzione del barter che si sta recuperando è anche quella di una funzione sociale del barter, perché il circuito dovrebbe servire anche a fare da filtro all'interno dei vari aderenti, quindi in realtà non chiunque può appartenere al barter, ma ci sono dei criteri di appartenenza man mano che soprattutto si vuole dare una funzione sociale al barter. Ecco, da questo punto di vista non l'abbiamo detto, quali sono i vantaggi? Perché da un punto di vista fiscale mi pare di poter dire che non ce ne sono di particolari. I vantaggi sono multipli, perché può costituire una leva finanziaria, perché io non ho lo smobilizzo di denaro, ma in realtà vendo, acquisto un credito e con questo credito poi posso acquistare, quindi ha una funzione quasi parallela a quella di un istituto di credito. Può consentire, sono sviluppati soprattutto a livello nazionale, ma potrebbe consentire, se la vetrina fosse internazionale come si stanno, una forma di cultura verso l'internazionalizzazione del prodotto. In generale mi pare di capire capire che questi circuiti sono ancora abbastanza piccolini. Sì, ecco, sono... invece c'è un problema di dimensioni. Sì, se il barter ha delle dimensioni troppo piccole non è in grado di funzionare o funziona limitatamente. Più scelta c'è, diciamo, cioè, meglio è. Però c'è anche un problema proprio di solidità dell'azienda, barter, perché che poi è una SPA in qualche caso. In alcuni casi sono SPA e che quindi al termine potrebbe porsi il problema di dover compensare in moneta invece corrente il credito. Perché all'uscita naturalmente questi crediti vengono monetizzati in moneta corrente. Quindi è un po' come per le banche, diciamo, c'è il problema che se c'è una fuga di massa ci vuole una solidità sufficiente, altrimenti il rischio è che qualcuno rimane con in mano il cerino. Caratteristica, diciamo, poi in alcuni casi può essere anche la garanzia del prodotto e quindi c'è tutto un sistema assicurativo che può agevolare anche il funzionamento del barter. Grazie Silvia Sardena. Grazie a voi.